Sì. Allora, come va? Sono mariata perché sono a dolore. Penso per questo dolore al femore, non se ne vuole andare. Ci sono anche da dolore, non ti preoccupare. C'ho tutto un fianco che mi fa male. Ma io ce l'ho una di legno, nel senso che non riesco a piegare, non mi capisco dal dolore. Dico c'è la gamba di legno, io ho il polso, la mano, la scapola e il collo che ha problemi. Sono andato a ritirare delle pizzette e non mi sono accorto che c'era il gradino, perché a posto di passare dalla parte di Cicci sono passato dalla parte di via Carbonazzi. A testa quel paletto dove c'è quella pizzeria del Giorgiano. Mi sono accorto del carino e sono sceso con un coglione. Meno male, a caldo non è di un teso rude, ma a freddo non è di mattina. Vabbè, ma quello già ti passi, e a me non si tratta. Sì, io ho fatto una caduta, però se passa un'altra, secondo me è reumatismo, non lo so. Perché mi era passato, perché sono caduto, mi è passato, poi sicuramente per un anno. Ho capito, aspetta un attimo, due secondi. Che appara che il microfono stia usando. Ebbene, appara se devi entrare, basta, adesso è questa trattata. Come sta, non si capisce subito chi si. Ciao già, ho acceso adesso, mi stavo vedendo un segnale che andava e veniva. C'è anche Alicio, si è assetta per secondo. E allora, cosa verrà? Ehi, così, sempre commissioni, ieri giornata piena, oggi va bene, no, oggi solo la mattina, eccetera. Chi c'è qua? Io e dici un niente. Già, sto notando, però che sei saturo, ma sei attaccato. Guarda adesso. Passaggio lungo. Ehi, adesso è un abisso, c'è un abisso, cioè limpida. Aspetta che state parlando in due, chi è l'altro? Chi è? Ma Antonello Pomponi o è? Ma è solito il bip Antonello. Oggi andiamo ad andare a pericare, uno con la portata, l'altro che brucia, se dovete fare il loro, andate per un altro canale. Che costi che si prendono, ragazzi? Ho capito. Già, perché sei così irascibile? Perché c'ho le palle girate, sono 3 ore che stanno usando portate, carte, fischiate facendo. Se non vogliono entrare, se ne stiamo appunto loro, non con la scatola di altri. Ui, poi dice ho ragione a entrare poco, vabbè. Comunque Antonello non c'è. Già, se non è voglia, chiudo anch'io, tanto mi sto giuffando con un hard disk. No, non è che non ne ho voglia. Io ne ho voglia, forse mi lasciano fastidio. Vorrei incantarmi, ma ne vado via. Sì, anche quando parli premeni. Da dire, ma lasciamo perdere. Ma cosa sta succedendo? Ah, siamo ritornati ai vecchi tempi. Si sa chi è. A me stai dicendo. No, ma... Vedi un po', 1, 2, 3? No, sì. Ah, vabbè. No, no, no, la portante era più forte. Chi è? Buonasera, 8:30 il segnale. Radio Buona. Buonasera a tutti. Mi di nuovo, mi. Ah, forse che fischia la portante. Sì, da poco fa che sta premendo sotto Gianni, sopra Gianni, vabbè, sotto Gianni. Ma calzone, ancora le portate esiste. Ehi, vabbè, eia. Ma c'è Antonio, Antonio Riserva? Sì, volte, sarà ascoltato, Gianni è... mettiti da parte, non c'è qua, non c'è nessuno. Boh, vabbè, dai. vi copre almeno una serata, dai. Già, chiudo. Ciao Antonio, Gianni, Pomponio, tutti, dai. Aspetta, come ci copre? Aspetta. No, a te no, a te no. Però Antonio lo copre. Buonasera. Ehi, vabbè, non puoi copare, mi fa dai, riprendete, già adesso. Sì, già, ti ha salutato. Gianni sono, buonasera. Voi avete parlato in due, Gianni lo profeta, mi copri. Copiato. Beh, novità. In che senso? Buonasera Gianni, buonasera Marco, non so che ci sia. In che senso? Tipo le carriere, amore, denaro, felicità, fama. Fammi! No vai, scherzo. Tutto... è tutto fermo, tutto molto fermo, e ciò non mi rende tranquillo. Vabbè, va bene così, dai. Io ero sul 30, 28, 29, stavo cercando di entrare, cazzo, c'erano degli inglesi, sotto c'erano degli italiani. Sto cercando di entrare, ma non ci sono riuscito, dai. Serve più antenna, già. E magari anche più watt. Aiutano molto. E adesso me ne vado a Monte Oro, mi attacco allo catanizio e scoccio tutto. Eia. Sembra che adesso si accalma la situazione. Ho parlato troppo presto. Oh, Iuia, vabbè. Allora, profeta, cosa mi racconti? Niente di nuovo, già. Niente di nuovo. Tutto... La routine si ripete come nel santissimo giorno. Niente di così, tra virgolette, entusiasmante, dai. Sono coperto, già. Sono messo la portata. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Ma vuoi dai, io chiudo, là. Non mi vuole nervosire. Ciao, ti sentiamo magari in migliori condizioni. Ciao. Ciao Gianni. E io altrettanto faccio io a ruota, dai, tanto ce l'ho fare al computer. Ciao. Andavex, ciao Marco, ci sentiamo in occasioni migliori, dai. Eia, ciao. Dove siete andando? Ce ne stiamo andando perché c'è questo che tutta la sera che avete portati, fischi e via dicendo. Portati? Grazie. Buonasera a tutti. Alla fine qui mi nervosisco, per stare nervoso è meglio che me ne fa. No, faccia il portante, vabbè, è indietro il portante, fatti avanti, che ti abbattiamo subito. Ciao Claudio, buonasera. Saluto, io adesso accesso, proprio in questo istante, ho sentito, stava tirando via. Com'era sta portante, forte, debole, media, com'è? Forte. E c'è uno stacco che fa quando vola la portata. Che allora quello è il parviere? L'ho messo anche nell'aria, il parviere. Perché ce l'ho io lo stacco. Ma stacco del tipo MC60, così, come questo? No, non è così come. Ma già si sente, capito? Vabbè, ogni tanto c'è sempre quello, magari qualcuno che stava provando che non usciva già, è impossibile, cazzo, i vicini hanno riportato, siamo in quattro. E cosa può fare? Che tutta la sera che sta fischiando, mettendo portati, quando parla da viaggi, l'hanno detto di andarsi in moto canale, se lo vado a rubare, invece continua a perdere tutta roba le scale. E basta lasciarlo perdere, vabbè, io sono qua comunque. Sono qua, adesso mi do una sistemata, se ci siete continuo, se no rimango in quel Rix, non aggiungano i 20 euro macchini traienti, visto che hai detto che ci sono, che c'è disturbi, allora vediamo, se vuole disturbare, disturbami. Dove sono arreso? Oh, beh, ragazzuolo, come va? Ma questa è? Quale? La portante, quella che c'era quando stavi parlando tu. Ma lo so, io non l'ho sentita. Boh, senti a Gruve, no? E avanti, cretino. Aspetta che fanno così, ma la vengono a vedere. Ma chi c'è? Ehi. Santiago Nove, ma dove vuoi andare? Vai col cate vai e si c'ha di lo mucu. Vai chi c'ha di lo mucu, vai per dov'è? Vai da bravo, vai. Che quando mettevo la portante io nel 1979, dovevo arrivare 9.50. Cazzo c'è Santiago Nove? Lascia via! Già, ti stai preoccupando, che è Santiago Nove? Vai, fatti durare un resto, vai, diglielo. Ha detto babbo, tornami il resto, vai, lascia via. Qua non è nove. È cosa buona, ha fatto brutti figuri. Allora se è forte è vicino a voi, qua è Santiago Nove. Fai solo ridere con una portante a Santiago Nove. Vai da bravo a giocare in bicicletta nei giardini, vai. E non la mettere più portante. Sotto l'incendio con la radio, capito membro? Tantino. Ah, tu, Santiago Nove. Arrivi canta a te. Canta a te arrivi, Santiago Nove. Grazie per il complimento, Sergio. Su questo ti puoi dare atto. No, vabbè, ma tu puoi arrivare anche più forte, però adesso sei Santiago Nove, quindi. Non so più carino questa portata. No. Vabbè, però da fastidio, sono i soliti stupidi che non sanno cosa malanno a fare. Sì, magari a che me ne nega, di qui si è trovato un baracchino davanti, magari a casa del padre, a casa di qualcuno. Ci che disturbiamo. Vai, vai, coccardi, vai. Vai, vai. Se no hai mucco, dai ficciati, andate a dei ciampa del guru, vai, da bravo, ciuccia. Ciao Antonio, buonasera. Ciao, Gianni. Caparrosmetro come si dice, sì sì. Poco fa non sono riuscito a sentire perché ti ha coperto. Vabbè. Vabbè già, non ci vuoi fare. Sono cose che capitano. Oggi il tuo segnale mi è stato abbastanza rispetto alle ultime volte. È basso? No, va benissimo, ho detto che è migliorato rispetto alle ultime volte. Vabbè, io cambio QTH, quindi. Bene meda, puntella e non toccare più niente, mi raccomando. No, vedete, come faccio a puntellare io? Ogni giorno uso la radio di svolta. Guarda, se mi è permesso dirtelo, adesso non so che microfono stai usando, sembra che stai parlando dentro un bicchiere, hai questa voce un po' chiusa. Sì, no, il bicchiere c'è, sì, è mezzo pieno. In che senso questa allusione? È l'inghilterra, tu mi permetti di dire, è l'inghilterra. Oh, ma già! No, stavo utilizzando tutti i microfoni per male della ZD, con il pulsante giallo che a me non piace. Guarda, ce l'ho anche in questo momento, lo sto usando anch'io. Sembra che praticamente stai parlando col microfono rovesciato. Avete parlato in 12. Ma e qual è Anto il microfono? Quello come sta usando uguale a quello di Gianni? Non ne ho idea, tu chi è il male della ZD? Non so, non è neanche nero, è grigio, non so, grigio tutto giallo, col pulsante giallo, il pulsantino, la plastica dello slider gialla, c'è anche lo geotipo. Non so quale. Non lo so, vabbè, comunque, l'importante funziona bene, poi già della funzione. Antonio, ce l'ho anche io in questo momento, lo sto usando anch'io, l'M95, con l'amplificato col volume sul microfono, il tasto giallo. È rosiobito. Sì, vabbè, adesso è disinserito. Lo so. Vabbè, mi sta dicendo che sto facendo male. Boh, sembra, c'ha questo effetto bicchiere, strano, boh, non lo so. Perlomeno io ti sento così. Per me è il baracchino che non si adatta. Effetto bicchiere Antonio. Antonio li usa bicchiere mio, Gianni. Lui usa la bottiglia. Claudio, vabbè, a parte la buffonaggine. Allora, visto, stiamo usando lo stesso microfono. Ok, Antonio. Per caso abbiamo la stessa radio? No, assolutamente. È molto meglio la radio, io sono sincero. E si conferma, Antonio ce l'ha più cupa, la tua è più squillante, ha tonalità anche più alte rispetto a lui. Non so che baracchino sta usando Antonio, che baracchino stai usando tu? Vabbè, quella tua è superiore già. Allora, 48 non è che si addice a tutti i microfoni. Va bene. Sembra che ci sia praticamente la capsula, praticamente che non è nella posizione ottimale, sembra che sia fuori posto, capito? Per cui il suono non viene pulito, questa è la mia sensazione. Adesso magari mi stanno sbagliando, boh. Originale, no, vabbè, era giusto un'osservazione, volevo dirtelo e basta, poi per il resto non ci sono problemi. Ok, andrà bene così, avanti già. Ehi, Claudio, non conosci tu quel microfono, quando mai non conosci quello della dettagli che grigio quel caso giallo, che in volta anche io, come l'ho comprato, l'ho portato a casa, per giocare non fai su microfono. Ho preso e ho verniciato subito il tastino, era giallo, non ho fatto diventare vero. Sì, che lo conosco. C'è anche Gianni Profeta. Certo lo conosco, già c'è il problema. Perfetto, brutto è brutto. Grigio topo, non vorrei visto. C'è anche. Guarda. Ah, il colore di quello che tu ti chiama te fare. Tanto da fare l'uovo di Pasqua. Io l'ho trovato, da bambino l'ho visto che è l'uovo di Pasqua. Ma te che l'uovo di Pasqua ti regalava quelli girati. Guarda che io ce l'ho ancora, due che avevo fatto di mia figlia, forse un 4-5 anni fa, aveva 9-10 anni. E sono, te lo faccio quello, due vuoi venti? Allucinante. Ma Marco rimane, Marco Marco ci sì. Ma Marco non risponde, e tu altro ripeto. Aspetta. Mettendo. Ma sì, dove c'è Cattaru? Non riusciva a trovare il buco. Giusto. Allora, non è troppo difficile. No, è tanto difficile trovare il buco che si piglia. Inteso, non lascia fare proprio un cazzo. Scusate un attimo, mi assento 2 minuti. Ma tu mi stai a provare, no? Io. Vabbè, no, tu è preso con quella radio che ti ho detto ciò. Stavo provando ad attaccare l'antenna per se mi sentivo. In FM è... mi sento tutto distorto, in AM non mi sento. Però la radio esce. Sai cosa ho fatto tu? Allora, dentro intanto è immacolata. Era 5 anni ferma dentro una barca. Dentro è nuova, che è più nuova non ce n'è. Certo che è nuova, mai stata riparata. Nulla. Correttore velocissimo, tutto. In trasmissione va, in ricezione è semimutta. Però sono riuscito a far andare in trasmissione facendo naturalmente a una, no? Togliendo tutte quelle spinette, come ho detto ieri a Fabrizio, togliendo tutte le spinette, l'ho tutta pulita con la trilina e poi data una bella passata di quello spray anticorrosivo, però le spinette uscivano benissimo, non erano corrose, niente, nulla. E' iniziato ad andare in trasmissione, c'è una potenza allucinante. Sia in SSB che in FM, in AM invece un po' meno, quindi, e poi non accende il frequentimetro. Sai cosa ho dovuto fare per cercare di provarla? Facendo isonda con l'altro HF per provarla, e sono arrivato sino a, adesso me l'ho segnata, adesso è bloccata a 7115 mi pare, o 135, adesso non mi ricordo. Però va in trasmissione a te, ed esce, ti dico, anche molto, ma molto bene. Vabbè, in AM è ovvio che sta dicendo che per me che faccia, però dice niente. Ma magari c'è tutta la parte del buccio da rifare, però dentro è nuova, sto dicendo io da Fabrizio, nuovissima. Nuova, mai stata riparata quella radio, mai stata riparata. c'è da vedere perché il frequenzimetro non si accende, o se è rotto, se è bruciato, non lo so. Si mette il frequenzimetro nuovo, costa 50 euro, 45 euro, cosa stavo guardando. Quindi la radio ne vale la pena ripararla, non a pezzini di cambio, un buffone di questo vento è immacolato, Giorgio vuol dire nuova nuova, mai toccata, c'ha tutte le fascette originali. Sì, sì, ho capito, no, vabbè, il discorso di Lucio, non penso che sia per mettere di Lucio, se no non avrebbe... Ma di solito quando fai i puntini è da rifare tutta la parte del VCO, quindi tutti i condensatori da sostituire, quelli sono da sostituire perché non appare manco il display, quindi capito? Quella parte lì dei condensatori è tutta da rifare, però dico ne vale la pena perché penso che a parte la spesa del display, se dovesse essere bruciato, ma non capisco come, è difficile che si brucino così, magari non manca di alimentazione visto che da 5 anni è ferma, non lo so. A parte quella io penso che con 150 euro quella radio si possa mettere a posto tranquillamente. Sì, all'incirca sì, 150, le riparazioni sono quella roba lì da 150 alle 180. Vabbè, io sono riuscito a farla andare in trasmissione, altro non posso fare. Non posso fare perché lì chiaramente c'è da vedere tante cose che io non ho né la capacità né la strumentazione né niente. Ma ti dico, l'ho voluta aprire proprio per vedere se c'era uscito all'interno, visto come il coperchio di sopra, le viti di sopra, quelli di sotto sono over and over coperchio, perché era praticamente dentro un cassetto di una barca, no? Quel tese della barca fatta in legno, capito? Infatti gli hanno tolto l'affare di davanti, quello che lo solleva, no? I piedi davanti e basta, e la maniglietta, anche le sono fesserie, già si trova. Però dico, anche il frontalino è nuovo, tutto funziona, è tutta funzionante. Adesso c'è l'accordatore che è più veloce del mio. Già lo so, già come si piazzano claro, le basse. Io, come sai, che ho lavorato tanti anni con la Seat Tronic, noi facevamo solo le tenute a valle. E io non lo ricordo, con Marcello e Maurizio. No, Marcello ce n'era già andato, io quando c'era il Giuseppino, il padrone. Siamo iniziati l'altro giorno con Marcello, Maurizio sono un secolo che non lo vedo. Vabbè, lì è, io l'ho detto anche a Fabrizio, ho dato l'input, quando c'ha tempo, con i soldi naturalmente, senza soldi non voglio niente a nessuno, per non mandarla fuori, perché a tempo perso, per me si recupera molto molto bene quella radio, queste cuffie, mi sono messo le cuffie a 7115, anche allineata sembra, perché poi io non ho frequenzimetro in quella lì, capito, mi basavo sull'isonda della mia, però sembrava anche abbastanza allineata, bella potenza modulata, anche in FM, tutte 100 watt da FM, anche di più. Però in AM è bassa e poi non c'è ricezione. Vabbè, è da vedere, però non è a pezzi di cambio quella radio, assolutamente. È da rivedere bene in generale, però all'interno io non ho notato niente di particolare, nulla. Con la lente non si vede niente di cotto, niente, tutto è nuova, però chiaramente da mettere sotto strumentazione e da fare le cose che bisogna fare. Da. Va bene, avanti già, doppio. Caffa. E riprendi, dai. Che cosa riprendo? Mi è venuto un po' pulisso, ma te ne faccio anche un po' vito. Quale giorno devo venire quando va vito? No, è che sono venuto in credito stamattina presto, sono andato a farti le visite, tutti. Non sono più con queste visite, già ne so come ne può. Sì, lascia perdere. Io devo andare all'Inps, che mi serve un documento, sto temendo. Prima devo andare all'INAIL, poi devo andare all'Inps. Non per me, per mia moglie. Perché sono andato già 3 volte all'INAIL, la gente si fuori alle 8:30 del mattino. Cazzo, ACB. E quindi devo andare prima. Devo andare prima, aspetto e faccio quello che devo fare. un documento molto importante per anche lei, per l'invalidità agli occhi. Vabbè, agli occhi, all'occhio, no, un occhio. Però ci devo andare, solo che stamattina avevo appuntamento col meccanico perché ho portato al 147 a cambiare i filtri. Dovevo fare altre cose. Timbre e tambala, si è fatto mezzogiorno, non aggiungo ben a due, cioè ho fatto quello che devo fare, però non è che posso fare mille cose, una cosa alla volta. Claudio, comunque al Ira in condotta vari, devi andare sulla sinistra per chiedere informazioni. C'è l'offerta tutta la mattina la... Non so che andare a sinistra, dove c'è il gabbiotto, ma lo sai la gente che c'era con i numeri aspettando il coso? Poi, tutti fortunati, e io con la grande dolore che ho, sono tutta una caduta che ho fatto con due garantie all'Ina e deve protestare, da una caduta che ho fatto in pescheria, sono scivolato, ho sbattuto forte il ferro e il bacino. Poi mi era passato, però adesso cazzo, non so dove si può stare, sta sempre prendendo il lotto, ho preso un attimo verifico perché non ci vado qui. Già, io c'ho un, scusa Anto, c'ho un dolore che mi viene non tutti i giorni, ma spesso, al tallone, a tutte e due i talloni, prendo l'antinfiammatorio e mi passa, e non so che cosa è. Sono la tallonite, che non ci sei sulla parola, la tallonite. Quello lì è venuta che a me una volta, ma quello che passa subito, non è una cosa come quella che c'ho io, a me mi limita anche il inchinato, il sedere, tutto. Boh, io ho iniziato a soffrire di con questo problema con le scarpe antinfortunistiche. Un periodo non le sopportavo e adesso che sono che non le sto più mettendo, secondo le scarpe che metto, un moccassino per dire, mi fanno male i talloni. Devo avere una scarpa molto morbida da tennis, ma posso uscire cazzo sempre in botte da tennis. Boh. Avanti Anto. Io esco sempre sta tratti, ma non posso fare nulla altro. Io lo stesso. C'è quest'altro scarpe qua. Ho capito, ma io posso uscire sempre scarpe da tennis. Quindi, secondo le scarpe che metto, è un casino, mi fanno male i talloni. Allora prendo un antinfiammatorio e mi passa un paio di giorni e poi mi do a finire. Infatti Mauri è incazzata e dice, vai dal medico, ma cosa fa a dire a fare? Cosa fa dal medico? A dire che mi fa male i garroni. E lo prendi l'antinfiammatorio per 2-3 giorni di fila, vedrai che ti passa. Perché se c'è l'infiammatorio te la fa passare. Già, l'ho presa per 3 giorni di fila e mi è passato, poi ho smesso, adesso stamattina metto un rado, Dorra. Sì, ma non c'hai a carro, ma sempre da me ha detto il medico fiscale, ha detto Valtieri, ha detto che c'aveva oltre il piede, perché la patologia il piede è quella che per questa casa, però oltre a quello ho detto, c'è anche questa offerta che mi dà dei dolori fortissimi, non riesco mai a muoverli, certo non posso scrivere due patologie, ne scrivo una, ma ne ho più di una. E lui mi ha detto, la colpa è la sua, cazzo mi stavo già incantando. Ma perché, scusi? E l'ho fatto, è perché lei con l'età sa che cosa succede, che se non sente i dolori non capisce che è vivo, quindi quando sente i dolori vuol dire che... Chi è che ha parlato dopo Antonio, prima di Antonio? Chi è? Ma tu eri Antonio? Sì, no, ho parlato, non lo so io. Tu c'era uno che ha detto qualcosa, più o meno con tutto questo segnale. Vediamo se è rientrato Rubroffetta. Mi tu l'hai chiesto il Tisciamu così ne è andato? Eh? Sicuramente quello che stai pagando tu per mettere la portata. Quello che è Anto? Sicuramente quello che stai pagando tu per mettere la portata. Non è bago che viene a poni abortante a Santiago Nuovo, io bago che ci fossi. Eccomi. Vabbè, ma non mi fai che sei tu, ma che devi pagare? Ehi, la c'è gente più forte di me. Vabbè, qui c'è Antonio Montero, ma... Vabbè. Io faccio la mia parte, poi c'è chi fa la sua, nessuno è forte, l'importante è ci facciamo sentire, io c'ho le mie zone, magari qualcuno ne ha qualche un'altra, ma in linea di massima, copriamo tutto. Non è fare un po' che tanto sassari, no? Tanto sassari sono buoni tutti, basta che si a vista ottica, l'importante è che vai fuori bene, capito? Avanti, lo profetta, avuto lei che c'è te sciamucco. Chi? No, stavo aiutando il vecchio a portare su un paio di buste. Ah, mi è arrivato un messenger, vediamo chi è. Sarà capo di Bugnetta. Riprendi doppio rum. Ehi. Allora, adesso è dopo che non è, non ho sentito. Adesso ne sento la porta. Aiuto. Mi sono contrumpito. Non è la stanchezza a volte, credo. Ma abbiamo fatto poco di cose. Sì, anche già la vecchiaia già. Non è la vecchiaia. Prima di tutto ti andi a mettere l'importo della stanchezza addosso di tu, anche se non fai niente, ti stanca, capito? Poi oggi sono in piedi da Alessio, ripeto, perché sono andato a fare visite, poi sono andato alla dottoressa. E poi stasera sono ritornato alla dottoressa alle 3, quindi non ho riposato più. Ma non è bella che potete riposare 2-3 euro. Ah, se la mani, l'ora è passata. Ho cercato di riposare, ma sono inventato solo il cane. Stai russando. Il mio è fatto, quando vanno e ti addormenti. Sì. Salute, si l'allenò e devo stare sveglio. Non ci vai allegro. Ecco. Come è andato io? Né a negri né a bianchi, non ne ho mai avuto bisogno. Quando ho avuto la bocca del naso mi sono sempre cavata. Ehi, ciao la bocca, tu, ciao la naso. Sì, vabbè, non posso dire le cose esplicitamente. Ma scherzato, già. No, ho sempre odiato io. E dicevo, la ragazza non era meglio fare altro piuttosto che andare a prostituta. Dipende da cosa è altro, non dipende da cosa si propone di altro. Aspetta, c'è qualcuno che parla assieme a te col tuo stesso segnale, chi è? Parla, ci devi parlare. Te la seguisci, Dorra? Parla. A me fa segnale di Antonio. Sì, beh, quello sì, me lo sono accorto anch'io qua, Santiago Nove e Santiago Nove. Ma lo problema è che fa vedere, non so che si fa vedere la giura. Conferma, sottoscrivo. È puntello. È un puntello, sì. Caso strano, anche poco fa, mentre stava parlando Antonio, è partito il segnale. Qua ci siamo. No, non ce l'ha con te, ha detto qualcosa, parla assieme a te, ma se vuole entrare, il canale è aperto a tutti, non è nostro, però non parlare assieme a un altro, avanti, chi è, chi sei, 6x6, 36, presentati, la mazza che te ne varia. Tanto io confesso, dammi la verità. Sono io che mi metto la portante. E uno veniva negli anni 80 a fare così, si soffromodulava la giura, poi da tirare il colpo a Falcone. Sì, che cosa c'era in quel periodo, ma era poco mancante. Aveva due baracchini, due antenne già, si poneva portante la giura, si ritirava tutti i curori e poi se la beviava con Falcone. Quando l'abbiamo sgamato, cazzo, le lacrime gliene scendevano, cazzo, che imbecille che... In quegli anni c'erano bombardamenti di portate, tutti i canali bombardati a portate, mi aggassino. Ehi, falli bombardare, falli voi, gli hanno già bombardato poco, ma bombardato però. Quegli anni c'avevo il 430, mi lo vedi qua vicino a me, due era, col PL922 era MC60. C'era la Daniela con Cosio qua a fianco, è rimasta solo l'antenna. La radio penso che si sia che abbia preso fuoco, perché il giorno sono arrivati in vigile del fuoco. Lì c'era Vincenzo. Sì, è sparito Vincenzo, Daniela, tutti li ho fatti sparire da carbonato. Tutti, poi Antonio Reventi quando veniva a prendermi si fermava dove c'è l'edicola, non si è fermato più sotto. Ha già detto, Anto, quando sei sotto chiamami che così scendo, perché era d'inverno, c'era freddo. E mi ha detto, va bene, che andrà sotto? Mi ha detto, mica sono qui sotto, io non mi sono accorto, ci avevo il TL922 attaccato. Ho detto, sto arrivando, quando sono qui parlato la zecchina della radio, per la dove. Cazzo, sempre me lo ricordo. qualcosa, ce l'ho su WhatsApp, a me sta di mai sempre di dare una radio e dumme. Che male, poverino, ormai in pensione, sta facendo il nonno. Ci sentiamo spesso su WhatsApp. Poi vedo il figlio Alessandro sempre lì, quando va dal Trisbarli, dove c'è Grazia Vereda che fa sede ai taxi, no? Perché ha preso il posto del padre, lui c'ha il taxi, capito? E quindi niente. Ma sempre mi lamento, la mazza che te ne vai a Radio Nuova, che... e tu non potevi spegnere invece di tenerla accesa. Io non me ne sono accorto, ma poi mi pare di avermi volato un'altra, adesso non mi ricordo che cos'è, forse un ITFM500S li avevo dato. E se l'aveva ripiazzato nella Renault 20, quella gialla, te lo ricordi, doppio rum? Sì, ma vedete che era quello che l'aveva marcato del pesce. No, quello è Antonio Benelli, Antonio Zarretto. E quel vecchio me lo ricordo, ma non mi ricordo chi era. Mi ricordo il nome nativo, ma non me lo ricordo chi era. Ero convinto che fosse quello. Antonio Reventi era tassista, no? Antonio Reventi era tassista, collega di Aquila di Giorno. Il tassista ci aveva una Renault 20, station wagon gialla. Ma com'era, robustello? No, è più robustello adesso. Ha avuto sempre, sì, insomma, non era Minghellino. Io mi ricordo tassista che c'era uno che aveva preso la pizzeria di via Antonelli a Portottone, te lo ricordo. Chi c'è magia, chi c'è Magnamoja. Dopo l'hanno preso Nino e poi Nino ci ha trasferito in via Balagna. Ehi, sì, no, qui c'è Magnamoja, c'è magia. Anche Antonio si chiama magia, ma niente a che fare con quello lì. E guarda che abitava dove c'era Grishenko, lì via Betta, via Livia. Magari ce lo vedo, già lo conosco. E anche la Vignogno che ti dà fatto, non si è più vista, sentito. Sì, anche è morto. Lui, Giovanni, l'altro fratello, è rimasto Gesuino Gavino, mi sembra. E guarda che c'è ancora l'antenna, se tu vai alla farmacia che c'è in via Betta, sollevi la testa, c'è ancora la mantova attaccata, non gliela tolta, è sempre lì, vai 15 anni in Chivi. Sì, è stata la mantova già andata, non sono problematiche come la tutti gli antenne. Ma è sempre lì, Io mi ricordo che questo Reventi ci aveva un lineare grosso, sui 600 watt. Cosa già? Che mi ricordo che questo Reventi aveva un lineare grosso in macchina. Ehi, non ci va bene, caspita se ci va bene. Fatti nella lotta con una cura di giorno. Ehi, vabbè, bei tempi, dai. Avanti, Rubrofè. Ehi. No, voglio votare sempre i soprannomi, cazzo. Cioè, insomma, sono quelle cose tipiche di risassanesi, cazzo. Escono fuori i soprannomi, cazzo, incredibili. Cosa stavo dicendo? La fila di Gnoto, un giorno l'abbiamo trovata con la Scalino. Determinate cose tu non le fai, alla fine poi arrivano i risultati che sono quelli che ne vai molto presto, capito? A lui gli hanno detto un sacco di volte, lascia lo giuccio, lascia la sigaretta, lascia questo, lascia quello, ma I banzinati che ci pigliava erano da 109, capito? Uno ogni tanto, una volta alla settimana, in compagnia, solleva il gomito. Insomma, il gomito di Alessandro era dalla mattina alle 6:30, come usciva da Colombano, a Vecchia Romagna, etichetta nera, a Stravecchio, e vamo già alla Paia. Io, guarda, sono per il sapone, non è per lì, non mi piace, di brutto di sapore, sicuro. Io non so manco di che sapore è, capito? Assolutamente, mai toccato quelle cose. Inverno, ma a gradi proprio lavorando qualche cogettino di sambuca, perché la doccia con vite non mi biasi, ma ti sto parlando di secoli fa. Adesso per me per alcuni non esistono. E non sto bevendo neanche niente, nulla, perché non ho tempo, non ho voglia né niente. E poi col problema che ho la schiena sto cercando di scendere qualche chilo, 3 o 4, 3 e mezzo, adesso sono già sceso una quindicina di giorni, perché non sto mangiando cose liquide, e va bene così. Però a quei livelli una persona già grande, quando si mette in corpo quelle porcherie, è chiaro che poi il fegato ti dice stop, sciogo gribado, e infatti è così. E la moto, Claudio, la stai usando? Eh? La moto la stai usando? Sì, anche stamattina ho tutta la mattina in moto. Non ti la metti fai di moto. No, già, ma mi copro, c'ho il giubbottino, cosa, poi mio Antonio l'ha vista come riserva. Non faccio grandi, quando c'è, ad esempio, l'altro giorno che c'era vento, quel vento fresco, non sono uscito. Però se c'è vento come quello dell'altro giorno, di scirocco, di beccio, venti caldi, dai, un giubbottino e già va bene. No, ma non ho dolori che la pianta dei piedi, già quando cammino, cazzo, sembro zoppo, mi fa male quando l'appoggio. Vabbè, ma quelle motori camminano, anche quando c'è caldo è sempre freddo, quelle motori come ti accendi di nuovo, stai già volando. Sì, ma io vado piano, chi è? Roberto? Oi Robè, ciao, buonasera, ben ascoltato. Ma eri tu poco fa? Frontale di quelli che vendono in farmacia, Robè? Oppure devo andare dall'ortopedico? Non lo so, a volte mi fanno male le ginocchia e questi talloni da impazzire. Prendo l'antinfiammatorio, 2, 3 giorni, 4 giorni e tutto è perfetto. Dopo lascio di nuovo 3-4 giorni e mi ritorna il dolore, Robè. Attenzione Sardegna, adesso ti faccio passare. Sì, ma infatti sono le solite stronzate che fanno le aziende per risparmiare, comprano scarpe non a norma c'è, eccetera, è chiaro che poi ti succede questo, perché per anni ho avuto appunto le scarpe antifortunistiche. Molto bene, vediamo intanto chi ti ha ascoltato. Chi è che ha ascoltato? Roberto D'Alghero, un mio collega amateur. Poi mi dice Roberto se sei andato in pensione, o se hai tolto tutto dalla, o se non sei più a Sassari. Gianni doppio rumore, l'hai sentito Roberto? Ciao, l'ho sentito. Ciao Roberto, buonasera, cordialità, doppio rumore da questa parte. C'è sempre a Sassari, Roby? Però beh, ma almeno una radio delle nostre te la puoi mettere in macchina, no? Allora aspetti, quando vai in pensione te la cambi. No, io sono già un anno e mezzo, un anno e sei mesi, già a casa. E da lì che hanno iniziato i dolori, porca miseria. Prima sì, però lavorando ogni tanto mi faceva male il tallone, la punta del dito grande, con queste scarpe antinfortunistiche, soprattutto sulle le ultime che ci avevano dato, gli ultimi proprio sei mesi, no? L'anno che appunto ce l'avevano due volte all'anno. E ho iniziato a soffrire, poi quando sono andato via questo dolore continua a esserci. Vabbè, controlleremo, adesso mi faccio fare il pagliativo, vi faccio una visita. Vediamo un po' se ascolti anche Gianni, l'altro Gianni Rubrofetta. Gianni, l'hai sentito a Roberto D'Alghero? Buonasera Roberto, ti ascolto basso in mezzo al QRM. Sono riuscito a copiare qualche parola, ma per il resto veramente mi viene molto difficile. Comunque nel caso ci pensa Claudio, salutati da parte mia, ci provo io, salutoni, 7-3 da questa parte, Gianni, zona bassa, Sassari zona stazione, dai. Vabbè, l'hai sentito? K. No, non ti sente o Gianni ad Alghero, Non ti accoppia, va bene. 9-5 sei qua. Un attimo il telefono, doppio rumore, riprende e fai girare per Antonio. Aspetta, c'era uno che va chiamato, attenzione Sardegna, avanti, si è ascoltato la Sardegna. Attenzione, Franco Rumadrema dalla provincia di Reggio Calabria. Ciao collega di Reggio Calabria, buonasera, la città di Sassari, l'operatore doppio rumore. Che ti super cordialità in compagnia di Antonio Riserva, di Rubrofetta e di Roberto D'Alghero. Avanti Rubrofetta. Buonasera, qui Gianni da questa parte, salutoni l'amico di Reggio Calabria, non ho sentito il nominativo, comunque salutoni da questa parte e avanti. Ok, buonasera. Tu arrivi con un segnale che va dal 7 all'8, però ti ascoltiamo abbastanza bene lo stesso, dai, sembra una propagazione continua, speriamo che continui a andare bene, dai. Comunque non abbiamo copiato il tuo nominativo, non ho sentito come ti chiami il nominativo, dai. Il mio, la parte mia è doppio rumo, avanti. Sentito, dai. Adesso ti stai arrivando ancora meglio, dai. Adesso ti ho sentito di nuovo e ti ho sentito meglio. E si è aperta adesso la propagazione, perché prima non c'era andata. Ebbene sì. Comunque, c'era qualche collega pugliese pure se non rimasto. No, negativo, io non l'ho sentito quello. Ho sentito solo te che chiamavi e Claudio ti ha detto un attimino che poi ti faccio mettere qui dove sei dimenticato. Vabbè, mi lancio tutto quanto Antonio Riserva, Antonio avanti, Antonio non viene avanti. Con quale apparecchio stai uscendo? Sì, allora sono un materiale, stasera un femminile, un bravo brutto della città. Sono rientrato io. Io invece ho un Galaxy Saturneco con lo stesso microfono. Come mi ascolti di radio? Certamente di dentro di radio. Kappa, dai. Ma tu non gli hai messo l'eco, l'hai lasciato senza eco. È un apparato amatoriale. Il QRM, forte. Claudio, avanti, ti sei dimenticato di farlo entrare. Sì, no, perché mi hanno chiamato al telefono. Ti ha detto che è un IC7000, è un ICOM, è un apparato amatoriale. Ciao, buonasera, non ho capito chi sei, da Sassari Claudio Sparviero, che ti saluta. Anch'io sto andando con un apparato amatoriale, però... Questi sono i miei gioielli praticamente a sintonia continua, TS430, TS440 e la Cambridge. Per il resto altri HF a livello amatoriale. Sei radioamatore tu per caso? Sì, Claudio, sono radioamatore. Francesco, molto bene Francesco, io sento spesso qualcuno si chiama Francesco, soprattutto in 40 metri, ma non so se sei tu. Ok, molto bene, vediamo un po' Roberto se ti ha ascoltato D'Alghero. Roberto, l'hai sentito Francesco? Perfettamente, 9-5. Ciao Roby, un abbraccio, fatti sentire più spesso, vai, noi siamo sempre qua, la ruota di Sassari, al comando qua, siamo tutti qui, al comando di chi vuole entrare, va bene, ciao Robby, un abbraccio, a presto, il cambio per Gianni Rubrofetta, avanti. Eccomi, ok, qua nel mio QTH Francesco arriva con segnale QSB variabile da 7 a 9, comunque la radio è 5, avanti. Sta alzando molto il QRM, tutti, arrivate 9, disastri. Francesco, molto bene, ok, allora sganci, noi siamo qua quando vuoi riprendere, doppio room a te. Ehi, ha detto poco fa che ho la barra diamatoriale, ma col microfono c'è anche l'eco, anche se la farà diamatoriale, c'è l'eco il microfono. Capito? Ce l'ha uguale identico al mio microfono, l'amico Francesco. Antonio! Perché Antonio non ha ripreso, cioè mi sembra Eugenio che sta chiamando. Eugenio? Ma sei in mezzo al QRM, Eugenio, molto molto basso, sei disturbato dalla propagazione, Eugenio, non so se ti ha sentito meglio di me Gianni, avanti già, Gianni doppio room, Io lo sento lo stesso, voi in mezzo al QRM, sì. La radio bassissima, se non esce da mezzo ai palazzi, non si sente. Eugenio, avanti, buonasera. No, adesso è migliorato, adesso è migliorato. Reggio Calabria. Ciao, ci sentiamo. Ciao Eugenio, adesso si è arrivato benissimo, Santiago 5-6 ha superato il QRM, vabbè, raga, io mi devo staccare però, ho ricevuto un messaggio, mi stanno aspettando sotto, ok? E c'ho da ritirare roba per domani devo portarla in cantiere, dai, quindi mi allontano, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Ciao momentaneamente a tutti, buon proseguo di questo, a dopo se coincide, a te Rubrofè. Eia, dai, ci aggiorniamo, io adesso non so quanto mi trattengo, anche perché devo andare al tabacchino a prendermi il tabacco. Ciao Eugenio, sono riuscito appena a sentire qualche parola, ma eri talmente basso in mezzo al QRM, quindi se sei ancora all'ascolto, salutone, un abbraccio anche da parte mia. C'era qualcuno che stava chiamando dalla Sicilia poco fa, mentre stavo parlando con Francesco, già hai sentito qualcosa? Già l'ho sentito, ma allora facciamo una chiamata, attenzione, canale 10, chi vuole entrare, nord, sud, isole, comprese, avanti, sente qualcosa ma sono basso. Attenzione sul canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamate se si divide l'ascolto. Vabbè, però vado pubblico, dai, non c'è problema. Riprendi, io vai un giro, Giulia. Oh già, riprendi, oggi vai a un capo pubblico. Vabbè, mi capita ogni tanto di sentire anche gente in FM che si piazza sotto, cazzo. Cazzo, mica è un fastidio, cazzo. Oh, io. Ma propagazione come gli anni che dico io, quindi prima non facevo il tempo a parlare con uno che entra a parlare, capito? Era così, adesso proprio è sporadica la cosa, non è più come prima. Certo. Tra l'altro poco fa, prima di entrare sul 10 stavo ascoltando lì gente sul 28, sul 30, insomma, ho cercato gente dall'Italia, però non sono riuscito a entrare. Vediamo un po', attenzione Reggio Calabria, ci sei ancora Francesco? Calma Francesco, dai, ci sentiamo, grazie per il collegamento, alle prossimine sempre propagazione sta perfetto. Ciao, buona serata, avanti Gianni. Ok, salutoni anche da questa parte Gianni, sempre Sassari, e niente, grazie a quel del piccolo QSO e ci si aggiorna, 7-3 e buona serata. Sempre a serata, ragazzi, ti devo dire una cosa. quel bicocco si dice tutta la tua voce, te l'ha fatto più bella squillante, ma lo sai come ti sentivo con portata dell'arrugio, lo porto forte, tutto bello. Ed è quel microfono brutto che dici tu. Sì, vabbè, esteticamente non vorrei visto perché è veramente brutto. Però insomma, funziona abbastanza bene, insomma. Non mi posso lamentare. Poi è un regalo di Bulldozer, quindi ti ho detto tutto. Sì, poi c'è anche il filo che rimane un po' duro col microfono. Io gliel'avevo cambiato, abbiamo messo quello, non so se l'ha cambiato anche Bulldozer, ma io gliel'avevo cambiato, ma se mi dava, non so se l'ha cambiato, io avevo messo quello morbido morbido e duro. Ce l'avevo e poi l'ho cambiato. E poi avevo fatto qualche modifica, l'avevo verniciato i tastini, il coso, il pulsore, l'avevo spuntato tutto il verniciato di nero. E così risaltava, era più bello. Ehi, sono entrato. Mi nomi Antonio Riserva. E allora, ma qual è quel 48, quello modificato? No, no, ho capito male. Attenzione, chi chiama l'Italia, Nord Sardegna, che ti supercordializza, avanti, l'operatore è già di doppio RU della città di Sassari, avanti collega. Renato, sto avanti dal Travicchetto, ti copio molto bene, ok? Buonasera. Buonasera anche a te, però sei un po' sacro, probabilmente quando sei attaccata vedi di abbassare appena appena, perché sei molto sacro come radio. Diciamo che ha migliorato un po', ma non è che vada proprio bene, è un po' sacro sempre la radio. Non ho capito da dove stai modulando, da che città? Adesso ti copio al 100% e ho capito che sei della zona della Napoletana, se non sbaglio. Capa, il segnale è alle 5 con la radio buona. Sì, dall'accento mi sono reso conto che della zona ecco qui di doveri, dai. Io sono in compagnia di due amici, adesso te li mando avanti. Gianni, avanti. Buonasera, qui da Gianni, Lubrofetta, sempre da Sassari, Nord Sardegna. L'amico partenopeo lo copio, insomma, non lo copio bene, per via del QRM della propagazione. Comunque salutoni qua da Gianni, 73 anche a te, ben entrato. Gamma, gamma, dai, sono la multi. E voleva allineato forse la parata, va. C'è qualcuno che chiama, avanti chi sta chiamando oltre a Bellino, avanti chi chiama, Crisa la Santa ti risponde, avanti questo greco, chi è? Io, avanti questo greco! Avanti, pronto greco, avanti, Crisa la Sardegna risponde, e poi si lancia che dopo non rispondo. Sarà ammazzarsi, pure chi per me. Ciao, ci sentiamo. Attenzione, canale 10, chi vuole entrare, viso la sarda e l'ascolto, avanti. Non so se sei Francesco, hai andato di nuovo lineare perché si sente tutto sardo e non riesco a capire le parole, te le mangi a brutto. Ciao, carissimo, grazie per il QSO, dai, un abbraccio. Chi è che dice come mi ascolti con la zona? Sei in basso, dai, Santiago di 3, data di 2. Ti ascolto molto basso, questa zona qua. Ciao, parla. Sento gente sotto, diverse modulazioni, quindi poi in mezzo al QRM non si capisce niente. Ci stanno parlando tra loro. Attenzione sul canale 10, c'è qualcuno che vuole entrare, l'isola della Sardegna che fa chiamata, cambio. Si è abbassata la propagazione, a che fare. Oggi è così, dai. Però per un po'. Però dico io meglio cosa. No, non è stabile, ci sono dei momenti e poi sparisce tutto. Attenzione collega, l'isola della Sardegna che ti ascolta, ma non intendo più. sai, quando c'è il propagato dagli altri canali, fermo al patologico che vado a fare un giro e poi ti chiamo, là c'è il tuo propagazione, già, aspettate. K. Oh già, c'era uno che sul 26 che diceva 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, però lui, per carità, lo carità, quando fanno così non entrano, stavano facendo le prove, invece ma la furia, ecco, in ogni caso erano furia. Ehi, ehi, sicuramente questi che ci sono sotto saranno queste locali e quindi, insomma, rimangono sempre, vabbè, io li ricevo molto bassi in mezzo al QRM e niente, non ho, incomprensibili. No, ti sento, perché hanno chiamato, guarda, hanno chiamato, solo che qui sparisce. Mi hanno chiesto anche un controllo. Ehi, vabbè, io... chiaramente non ho la stessa ricezione che c'è tu, sia per posizione che per antenna, quindi alcune cose sicuramente le senti meglio. Sì, vabbè. La mia antenna è anche mezzo capottata, perché sono usciti due radiali, cioè vengo a macchina, mi è fasciata. Però ricevo bene sempre, non ho nessun problema, stazionale sono le 1, quindi sono tranquillo. Ho capito, sì, vabbè, parlo proprio di dimensioni e di caratteristiche. Questa è insomma funziona bene, però chiaramente ha i suoi limiti proprio per il tipo di antenna che ne ho vista una usata su eBay, giusto per curiosità mi sono fermato a guardare, però come mi ha detto Fabrizio 139 euro per una mantova usata sono è un prezzo esorbitante. Certo, certo, non pagata 120 euro, no, ma la mantova 5, 120 euro, no, però è dal negozio. Qua su eBay c'è un'inserzione, mantova 1, 139 euro, 139. Poi se è usata, bisogna vedere se ti dà problemi, è stata comprata la moda, eccetera, eccetera, no, non la sapete. No, vabbè, a parte che in questo momento ho altre cose più importanti da sbrigare. E poi, vabbè, ti ripeto, un prezzo del genere con un'antenna usata è una follia. Follia. Io la mia ce l'ho una quindicina d'anni sul tetto. Non mi ha mai dato problemi, la mando qua è l'unica secondo me, non ve ne ha. Ci sono mille antenne e le cose, però io con la mando mi sono sempre trovato bene. Certo, certo. Fabrizio mi ha detto che probabilmente da adesso a livello informativo, non sto comprando niente. Comunque Fabrizio mi ha detto che probabilmente da Grassi si trova, eventualmente si può trovare ancora qualche esemplare. Ma non lo so, da Grassi, può darsi. Quello di Grassi si ha mantenuto già con più solo, sai, sì. Well, non conosco quella realtà, quindi non so neanche di chi stai parlando. Quello che ha venduto alle conce, ce l'ha presente, di baracchini e roba del genere. Alle conce? Non ricordo niente di simile alle conce. Allora, praticamente è presente l'elettramato che c'è di fronte a Campini, con l'elettramato. Guardate, appena più avanti c'è lo spartitraffico, diciamo, proprio di fronte allo spartitraffico aveva un negozio lui. Più o meno adesso... Sì, ma non ci ho mai buttato l'occhio, quindi non ho... Niente, non ricordo, dai. E se ce l'ha, la semana compro anche io, con un tempo di riserva. Quando questa qua si prende di tutto, ti dirà a mano, ti metto là. Io adesso vi tengo questa finché le cose non migliorano. Poi stavo guardando un altro paio di antenne della Sirio 5 ottavi, insomma relativamente abbordabili, e niente, insomma ce ne sono un paio che tra virgolette, sempre con le virgolette, potrebbero fare a caso mio. E poco la grazia, ma se la trovi, ma Attenzione, nel Romba 5 quella che c'è a Grassi stavano dando problemi, c'erano qua difettosi un periodo. Tutti quelli che l'hanno comprata gli hanno dovuto rifare l'allungimento perché si aspettava l'allungimento, anzi era già messo male da quando l'ha comprata. Ho capito. No, guarda, ho visto un altro paio di antenne su eBay della Sirio, una GPE27, una 5 ottavi, insomma, sembra da quello che si dice, sembra anche un'antenna seria, quindi, ti ripeto, dal prezzo, il prezzo è anche, insomma, interessante, e niente, insomma, ho buttato uno sguardo lì. Per adesso non so come occupare di nulla, però insomma, già me lo sono segnato come segnalibro. Sì, vabbè, l'occasione magari si prende quando vengono sempre i migliori. No, l'antenna è abbastanza buona. Ti ripeto, è una 5 ottavi, una Sirio, 6,50 m, c'ha tre piccole radialinee alla base. È una bella antenna. Poi ce n'è una mezz'onda che più o meno hanno lo stesso prezzo su eBay, forse 1,50 € in meno, qualcosa del genere. Però Fabrizio mi ha consigliato di prendere quella, la 5 ottavi, eventualmente quella con i tre radiali piccoli. 5 ottavi è sempre migliore. Cosa stavo dicendo? Anche io dovrei scenderla, non la giugano perché non sto bene, però dovrei scenderla, prendere il radiale, un radiale di quell'antenna lì, prendere la misura e fare la misura, quindi che vengono già a stecchi, la ripetono la piccola, fittati con la nuova e poi li fai la misura e non c'è problema, poi li metti il bobino davanti, sembra l'originale. Eia. Sì, ho capito. Ascolta, io devo staccare un attimo perché vado al tabacchino, se no mi chiude e poi mi tocca a Ravana Cianotti. Quindi io stacco e vado a comprarmi il tabacco già. No, ma non mi fai male, vai. Ciao, sentiamo. KK. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno che può entrare. Giulio. Marcello, Marino, Marcello, Marcello. Ciao, poi. Come va? Ehi, Giulia, c'è un casotto, c'è l'emergente, che ho acceso adesso. C'è un casotto in giro, non si capisce nulla. C'è preparazione, quando c'è preparazione c'è un po' di chiasso, là. Allora, tutto a posto, sì. Sì, ci voglio. Domani dopo che cominciare la terapia. Con pazienza, piano piano. Sei giuventi, andiamo avanti. Piano piano, la passa, là. Ok. Per forza bisogna andarci. Se mancherebbe altro. Abbiamo fatto il più, poi facciamo il meno, no? Esatto, se vogliamo contare qualche giorno in più, meglio, se si può fare qualcosa di farlo, ci mancherebbe altro. Nulla, avanti. Ok. Io ho acceso da poco, mi ero tutta la sera al computer, poi sono uscito a comprare un po' di frutta, quella di voce un po' vicino. E poi sono venuto a sapere che vado a scaldare il barattino, così almeno lo teniamo sempre pronto. Esatto, io c'è la gente, scorgi mio nome che insieme a mio nipote è partito fuori e c'è un torneo, è un'unica, l'unica sera niente. E c'è lo socio di mia figlia, comunque, sono con l'altra, stanno parlando siamo qui adesso, ma tu si accendo, un minuto, ho fatto un giretto, ma c'è un caos, sono venuto con 10 su 10, allora giù di una scuola non ci dovrebbe essere, va, avanti. Ok, però io sto accendendo accendo tutte le sedie, anche se magari non ci fanno nemmeno, però lo accendo sempre tutte le sedie, è meglio tenerlo sempre caldo, dai, scaldare tutte le sedie, no, se forma la condensa e magari succede un guaio come la volta scorsa e dopo bisogna riparare. Invece così lo uso, se so che condensano, se ne forma dentro, va bene. Esatto, io adesso sto usando un magno, un magno e un magno, un giorno cambio, però anche se io non ci sono, ma adesso c'è una cosa, accendo e lascio andare, capito? Anch'io faccio così giù, da loro sono caldi e ciccia. Tutto ok, alleluia, molto bene come terapia. Cosa detto? Non ho capito, cosa detto? La terapia molto devi fare, così, a giorno e giornate, no? Ah, una volta alla settimana, solo una volta alla settimana, un'oretta, dai, tutti i giovedì, per 6 settimane. Vabbè, dai, piano piano, dai. Piano piano si fa, con calma, con più sereno, andare di là, ogni tanto, se ci pensi è peggio, meglio, se ci pensi è peggio, meglio a pensare altro, bene, avanti. Ok, poco da pensarci c'è, devi fare basta, state stare lì, utile, a pensarci troppo, vuol dire, soffriremo ancora, cosa vuoi che ti dica? Esatto. Ti volevo chiedere, ma le cose, ho detto da te, l'impressione è andato, come poteva il bombo, come cantarla oggi, che sono molto saporoso. Sì, tutti quanti in pensione siamo, tutti, solo il più piccolo di tutti, quello sta ancora lavorando, quello è al parcheggio, no? Di Viale Italia, tutti gli altri, tutti in pensione. Almeno qualcosa si vuole, lo so, dai, non voleva, si voglia, autorità. Ascolta, insomma, con calma, mi dice da prendere l'antenna, come si chiama, la canna, proviamo e me la fai a tempo libero, se si impegno, una correttina di fotografia, come è abbastanza bene qua, se si impegno, ti prendo il materiale. Non ce la facciamo insieme, ma aiuti, che io non ho nulla sinceramente, non c'ho anche il tempo relativo. Si può fare, non è un problema. Abbassa un pochino la radio, che stai cominciando a distorcere. Abbassa un pochino la radio, o la potenza, non lo so. Forse la potenza è meglio. Tu non ti mi lascia il telefono. Va bene. Scusa giù, era da lui, mi ha chiamato da fuori. Stiamo andando alla manifestazione dei ragazzi. Ok, andate giù. Ok. Stamattina mi sono fermato lì dove distribuisco le buste da voi lì. Ma se può, magari mai uno per prendere 4 buste e restare una mattina in fila. Oh, non vado più. Già non ci stavo andando da almeno un anno e mezzo. Ma stamattina stavo passando davanti, io ho fatto, beh, adesso mi fermo, vediamo un po', visto che oggi è mercoledì, saranno le buste. Ma non vado più, non posso stare mezza giornata io per darmi 2 buste. Me li compro come sto facendo sempre, non se ne parla più. È un casotto, non lo so, sì. Purtroppo è un casotto, non so, è un casotto, almeno c'è la fila, fino in fondo c'è la fila. Guarda, già non c'è 2 minuti, da qualche pacchetto già io l'ho procurato per la plastica, e come pacchetto quello che usavo io per i cestini, trasparenti, li uso lo stesso per la plastica o per il secco, ovviamente. Già ti faccio lo scudo prima, poi te la avvicino giù, perché non c'è problema. Ok, Mario. Ok. Sì, beh, certo, no. Sembra che io mi devo mettere in fila lì, fare i domandelli della limusina. Ma se me la metto, quando vado a fare la spesa, spero molto, mi compro un pacco di diverse misure e compro quello a 70x110 di grande, e dove ci va la plastica, e poi anche per il secco sto usando quello, sono trasparenti, si vede tutto quello che è dentro, per cui non posso dire niente. Quando passo a ritirare, infatti, ma già da almeno un anno e mezzo che stiamo facendo così, me li sto comprando e chi già, no, non mi pongo in fila, chi venire, c'è parcheggio, tutto quanto, tutti quanti parcheggiati a crate a glose, ma vai! Pronto al gioco, cioè, ci sono dei buchi in una pazzesca, i camion passano, i camion rossi, i camion tabuni, c'è un buco che ci sta macchinando, finiti! Io sono un amico, con la moto lo stesso non l'abbiamo preso perché c'erano minimo, ma proprio minimo c'erano 30 persone. Andiamo lì, non se ne parla più. Poi forse tutto pieno di postanga, anche perché eravamo in una giornata di brutta, che stava piovendo, eccetera. Tutto pieno di postanga. Io ci ho provato di nuovo. Sono passato a vedere con la macchina mia e sono fatto no, non dormo più, ma così mi bagagli. È un casotto, lo so, sono anche troppa gente giù, che stanno potenziando le zone, se sono andato anche la zona di, come si chiama, Sassai 2, quindi è tutto porta a porta, Torino è tutto porta a porta, la zona di Ciciale è tutto porta a porta, allora, stanno ogni giorno intanto aumentando le zone, quindi, la gente sta scendendo a prese le busse, ecco il casotto, lo so, perché sono un giorno, io dico, fanno i giorni fermati, fanno che non si ingiorno, la gente scende i giorni fermati, no? Appunto, ma poi il bello è questo, no? Tu hai immaginato una persona anziana, ci sono quei vecchietti oppure quelle donne vecchie, come fanno ad andare a girarsi le busse? No, non è possibile, se ne devono per forza comprare. Secondo me il comune avrebbe dovuto mettere un uomo con una motoretta, carica lì e va a distribuire porta a porta nei posti dove c'è la differenziata, perché non è possibile poter andare lì, ma non domani. La cosa riguarda il comune, metti un uomo, dopo lo paghi, perché è giusto che sia così, le dai una moto in dotazione, carica tutte le buste, hai la lista degli utenti, passi porta a porta e gli lasci le buste sistematicamente ogni certo periodo. E invece no, devo andare chiusi, di buoni in fila, pari un miserabile, pari che si domandano delle musiche da prendersi le buste da pochi centesimi da buoni. Mi pare che il banco si buchi mano, mi sembra che sono una trentina di buste, le pago €1, €1,50, ma quelle grandi però, quelle da 70 per 110, se vuoi immaginare, e le altre costano ancora di meno. Infatti sto prendendo anche di quelle con le bretelle, che viene bene anche alle gare, viene bene. E non se ne parla più, non è tardi qui a mendicare le buste al comune, fa carità. Mi fa lo schifo, io lo so, signor, fa lo schifo, fa lo schifo. Io quel servizio l'avevo fatto quando c'era il carro, c'era la porta a porta, qui al centro storico, c'eravamo la macchina con il fumo in utenza, facevamo il giorno, andavamo a via, lo avevamo in due, a via, ci arrivavamo, lo avevamo a busto, lo facevamo filmare e via. A me una persona non ci va giù a rompere il gatto. E così andavamo noi, invece va tutto a risparmio, ho capito? Scelgo la busta, scelgo e prendi. Infatti, no, perché non si può, dai, non si può. È un servizio, però la destra della moglietta è la banda, è sempre aumentata, neanche quest'anno è aumentata. Certo, c'è quella che paga con 202, mi sembra che era, avanti 223. L'altro lo stesso ha aumentato 10-15 euro lo stesso. Certo, sì, perché io ne pago due, no, di terza moglietta, di tali. L'altra è essere pagato, di essere pagato in quellino, per dire, ma io due me ne pago, sono 450 euro all'anno, mi pago di destra moneta, se parli su, ti dovrei chiedere anche le buste per il magazzino, no? Per l'ufficio, eccetera, che oggi c'è l'ufficio, non è più falegnameria, è l'ufficio. Per dire, se lo vorrei chiedere anche le buste per quello comune, non so come è andato invece, ma come devo andare a Lisso, capito? Qualche volta quando andavate giù lì a Fontana del Golfo, come si chiama, ci sono andato un paio di volte, ci sono andato, anche lì bisognava fare la fila, ma avanti quando più, oh, ma come sogno. Anche se c'è il magazzino, in via dove c'era il voto non prendiamo, non prendiamo perché lì non c'è il portaposta, capito? Mi direte che ho portato, mi chiede le bagate, sono un tempo che è sbagliato, non è sbagliato. Le buste erano portate, capito? Noi ce l'avevamo tutto l'anno. Se tu non hai, c'è più un bel troppo buttato, per lasciamo perdere un'altra parte. Sai come io pagavo 100 euro prima, 100 io, 100 mia figlia, adesso mi pagavo il doppio, perché avevo fatto il portaporto. Pronto? Ma lo so che sto io per il portaporto qui in campagna, no? Ma l'ho preso. Sono in barato. Non sono incazzato, no? Avevo fatto a Capoverde, tutto il giorno sotto giù. Tutto il giorno sotto, non sono incazzato. Non è che mi sono a niente, va. Infatti, no. Vabbè, la fatete, comunque, così è. Ecco, ogni tanto mi arrivano delle scariche tremende, ma cos'è il mobile, il cavo, cosa fai? Perché arrivano delle scariche tremende quando stai parlando. Forse come muove il cavo, magari il contatto lo disturba. Anna, io ho un microfono abbassato, ho un microfono a base, sto utilizzando. Ma cosa arriva? No, adesso no, ma poco fa, ma già dopo 4-5 passaggi che arrivavano queste scariche, no, pensavo, vado, ma forse la propagazione, non lo so, ma se stiamo usando un microfono a tavolo, vabbè, andare così va bene. Piuttosto, il baracchino non lo mettere mai a potenza massima, come potenza di uscita, stai usando il mangio, stai usando, no? Perché va esce compresso, esce, capito? Mentre invece se tu abbassi la potenza, va sicuramente meglio, molto più chiara la modulazione. È abbassato, è stato, non so, è proprio, non è questo passaggio, giù. E così va già meglio, così va già meglio, così è meglio, sì. Io lascio oggi era per un pochettino, adesso l'ho toccato adesso, lasciamo oggi e basta, allora. Così va meglio, sì, infatti. Ti ho fatto che non ti capivo prima, quando inizialmente non ti capivo quello che dicevi, mi ho dovuto mettere le cuffie per ascoltarti a volume bassissimo, perché se no non ti capivo quello che dicevi, perché riuscivi praticamente con la modulazione distorta. Adesso già va discretamente, adesso già va bene, dai. Vabbè, comunque, andrà bene. Dimmi una cosa, ma Paolo, o tuo cosetto, o tuo nipote, o tuo fratello stesso, no? O tuo nipote dovrebbe essere, no? Ma Paolo mi ha detto. Paolo Pala, cos'è tuo nipote? Quello del negozio delle bombole. Paolo era mio fratello, era mio nipote. Adesso mi comanda più, diciamo, la non di più. E si è rimasto con il nostro rapporto. Ho capito. No, pensavo che era qualche tuo nipote, infatti io pensavo che... perché tu, io mi ricordavo che era Mario prima, quello che era scomparso, invece tu mi sei detto che è Paolo. Paolo è scomparso prima, Paolo è scomparso già un paio d'anni, Mario è scomparso a dicembre, Mario è il figlio di Giuseppe, e comanda tutto lui è Giuseppe, capito? Ah, si chiama Giuseppe allora, quello che c'è adesso nel negozio si chiama Giuseppe. Esatto, c'è il nome di mio padre, va. Ho capito. Ed è il fratello, il figlio di chi è? Di Paolo o di Mario? No, il figlio di Mario, Mario c'aveva due figli, c'è Stefano che lavora insieme al bambino e Giuseppe. Chi comanda tutto, diciamo, di Mario e Giuseppe, capito? Stefano è sotto, diciamo, sotto il di Giuseppe, va. Ho capito, sì, ho capito. Va bene. No, perché avevo un po' di confusione in questo fatto qua. Avevo capito, non capivo bene. Va bene, ma abita più alle punte per caso? No, negativo, Giuseppe abita, diciamo, a Sant'Orsola. Diciamo, Mario e Paolo abitavano giù in campagna a Punta Lanieta, perché io c'ero un terreno, io ho venuto a Mario e Paolo, e io non ho fatto la casa di campagna, capito? Adesso Paolo è scomparso e alla signora con i Paolo e i suoi figli mi ha invitato tutto la casa, mi ha invitato la macchina in capoletto, capito? Ma già è rimasta bene, invece già è rimasta la moglie di Mario, che c'è la casa e c'è una figlia, diciamo, là, un nipote. Ho capito. Va bene. Andate. Sì. Perché cos'è? Hai intenzione di fare l'antenna anche tu come quella che io? Hai intenzione di farla così? No, siccome c'ho un paletto già pensato, già pensato, è brutto, e stavo pensando di fare un'altra, che già una volta con un altro paletto, invece di usare un'antenna, se non la vedi sempre, invece c'è una volta in più e ciccia, hai capito? Se vuoi utilizzare la paletto invece di ciò, c'è un giro, c'è un insomma, c'è un altro, e intanto voglio attaccare intanto, capito? Ah, ho capito, se ne vuoi mettere un'altra o anche due per avere tutte le radio tutte pronte già in antenna, ho capito. Beh, non ti conviene allora a metterti un commutatore d'antenna, non fai altro che attaccare tutti e commuti, no? E così non hai bisogno di altre antenne. Non so, per me è tutto assieme, non ho cominciato, avevo già pensato, adesso vediamo, là. Ma non c'è stato, non è che c'è stato, non mi sbaglio. Cos'è che c'è stato? Uno? Chiamati una buonasera, quando non è che fosse un caso, e no, poi ci ho preso anch'io giù, ma solo sono messo un tavolo, ma prima c'era l'antenna, prima l'ho staccata perché era troppo pesante, mi ha problemi alla televisione, e siccome non è bene, leggeva, e la regina è morta, che fa un altro, hai capito quello che dicevo? Ho capito, sì. Perché quando è così ci vuole commutare l'antenna, non è che puoi mettere l'antenna per ogni baracchino, no? Se metti commutare l'antenna non fai altro che girare e ce l'hai sempre pronto, no? Se tieni l'antenna migliore che hai, quella che fa funzionare tutte poi. Naturalmente ci vuole un commutatore d'antenna serio, non ti prendiamo uno ZG perché lì se non si venisse di là. Se prendi un Dive ad esempio, vanno bene, quindi, o un Diamond, quelli sono le cose, i commutatori d'antenna come si deve. Ma non prendere il ZG perché gli fate il tipo, figurati. Io ce l'ho uno ZG ma non l'ho mai trattato, infatti anche non so nemmeno dove ce l'ho buttato, o addirittura se non mi ricordo bene se ce l'avevo già buttato o meno, era nuovo, mai trattato, l'ho provato e faceva schifo, ma se non lo userò mai, infatti non ne ho mai usato, e ci vuole quello, ci vuole un commutatore come si deve, un Diamond, Diamond o come si chiama, Diamond, oppure Daiva, quelli sì che sono buoni. Ma l'ho provato, c'è buttato una parte, una ZG appunto, apro la visione, ma questo è uno schifo, una o due attacchi, capito? Ma adesso vediamo un caso, se trovo qualche occasione entro nella mia 3-4, ma se lo prendo, ZG fa schifo. Ok, ho capito, ma ti ho capito. Sì, no, io adesso ne sto già mettendo in cantiere un'altra, devo andare così tanto per divertirmi, no? Sono 20 minuti, mi sta lì l'antenna, già ti rosse per quello. Ma io tra l'altro ho anche la matto battuto, là l'avevo tolta tutto per il fatto del vento, perché fischiava il radiale, però con l'antenna è perfetta, va a meraviglia. E ce l'ho sempre, no, glielo vedaccio. Però l'ho smontata, non ce l'ho piazzata. E allora avevo fatto questa, l'avevo fatto, così, solo per il gusto di farla. Quando l'ho piazzato, ho visto che andava bene, l'ho lasciata, è sempre lì, ed è in basso. Adesso la devo riportare dalla parte di dietro, dove c'è più attenta e soprattutto mettere il tubo, perché il tubo vanno per lei, c'è un metro di tubo, un metro e mezzo di più di tubo da pavimento, per cui non è che va bene così. La dovrei mettere da parte dove c'è la prima armatura turbo, in modo che sia almeno 5-6 metri più in alto di dove adesso. E lo farò, prima o poi lo farò, ma adesso sto pensando altre cose, per cui non è il momento, ma diciamo che tra un po' già lo farò. Ma tu pensa, non rischiare? Questo è un bene. Che vuole entrare? C'è qualcuno che sta mettendo portante, che sta mettendo qualche cosa. Ecco cos'è la scarica. C'è qualcuno che si sta lavorando con questa scarica, ma lì. Prova a mettere la portante, ma lì un attimo, che voglio capire una cosa. Sono la portante. Ah, no, forse no. Forse la propagazione. Prova a vedere, a cambiare canale. Faccia canale 12 a vedere. Vediamo un po' se è la propagazione.